Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. Buona domenica, ben ritrovati i Padri Eterni, Radio 24 come ogni domenica. Federico Taddia e Matteo Bussola. Ciao Matteo. Ciao Fede, buona domenica. Come stai? È stata una buona settimana? Bene. Ma Fede, è stata una buona settimana, ma consideravo, sai, che questa settimana è partita ufficialmente l'estate. Vero. Eppure in un certo senso non ce ne siamo quasi accorti, no? Perché i figli erano già a casa da scuola da prima. Noi abbiamo ricominciato a lavorare fortissimo dopo il lockdown e quindi viviamo insieme questo tempo nuovo, questo tempo strano al quale stiamo ancora tutti un po' prendendo le misure. Io ho fatto una cosa molto in linea con quello che diciamo, no? Dei padri che ascoltano, dei padri che cercano il dialogo, dei padri che invitano i figli ma non obbligano. Ho costretto il mio figlio adolescente a fare un trekking con me, partiamo tra poche ore. Oh, povero. Gli ho comprato il biglietto del treno, cioè può rientrare quando vuole. Però insomma, mi ha chiesto quanti chilometri sono, io ho detto una ventina, poi non ho specificato che era una ventina al giorno, adesso questa cosa credo l'abbia intuita, però vediamo insomma, probabilmente dovremo fare poi una puntata di recupero qui dei Padri Eterni. Come sempre, anche oggi, tante storie, tanti ospiti. Radio24.it è il nostro indirizzo del sito da dove puoi poter scaricare il podcast. Se invece volete contattarci, padrieterni@radio24.it è la nostra mail, oppure attraverso la nostra pagina ufficiale di Facebook, i Padri Eterni di Radio 24. C'è un'immagine fortissima che questa settimana ha detto un sacco di cose, più di mille parole. L'immagine di una mano, di un figlio che stringe un'altra mano, che è quella del padre. Questa mano non la lascio, dai, papà, l'ha scritta sopra. La foto l'ha scattata Nicolò Zanardi mentre appunto incoraggiava suo padre. Una foto che ha girato tantissimo, una foto in cui insomma tantissimi di noi genitori ci siamo riconosciuti, ancora di più si è riconosciuto chi ha accompagnato il proprio padre fino a un ultimo momento e quella foto magari non l'ha scattata, non ha potuto scattarla o non ha voluto scattarla, ma questa foto ha suscitato veramente tantissime riflessioni su cosa voglia dire essere padri, su cosa voglia dire essere figli. Una delle riflessioni più belle era di Alberto Infelise, giornalista della Stampa, un pezzo intitolato "Anche io come Nicolò Zanardi tenevo stretta la vita di papà per non lasciarlo andare via". E Alberto è qua con noi. Ciao Alberto, buona domenica. Ciao Federico, buona domenica. Buona domenica a Matteo e a tutti gli ascoltatori. Grazie davvero per essere con noi, per condividere questo ricordo, che è un ricordo tuo, un ricordo, una foto, come dici tu, che ti sei portato nel tuo cuore, nella tua immagine, no? Perché questa foto non era mai stata scattata, e però anche con forza e con coraggio l'hai voluta condividere. Quando hai visto quella mano, la mano di Nicolò, che viaggio hai fatto? Sono ritornato esattamente a quella stanza di pronto soccorso in cui tenevo la mano di papà, perché l'immagine è esattamente quella. Io penso che la forza di quell'immagine di Nicolò e Alex Zanardi sia che ognuno di noi che ha vissuto una cosa simile ha nel cuore quella stessa immagine. Io mi ricordo perfettamente il momento in cui ho pensato che la mano mia e di papà intrecciate erano probabilmente una delle ultime volte che le vedevo, perché papà aveva avuto una grave crisi respiratoria e non sapevamo se come sarebbe potuto andare avanti, ma sapevamo che molto probabilmente non ce l'avrebbe fatta. per cui mi sono ritrovato con tutto il cuore, con tutto il pensiero dentro quella stanza, dentro quelle sensazioni che erano ovviamente orrende, ma anche molto, molto dolci, molto malinconiche, molto, molto intense. Alberto, senti, questa foto, come diceva Federico in apertura, è una foto che ha commosso profondamente il paese, l'ha quasi ricompattato in un certo senso, no? Dopo questo periodo difficile che tutti abbiamo attraversato, ci ha ricordato forse che cosa significa essere padri, ma soprattutto che cosa significa essere figli. Vorrei chiedere a te, da figlio, a maggior ragione, visto che sei passato attraverso questa esperienza, che cosa pensi in mezzo a questa commozione generale di chi magari ha avuto il coraggio, anche stavolta perdendo un'ottima occasione per tacere, di lasciare commenti francamente del tutto fuori luogo, no? Del genere che Alex se l'è cercata, che questa cosa insomma è dipesa dalla sua condotta. Che cos'è che scatta nella testa di queste persone? Ma allora, secondo me è un discorso un po' complesso, nel senso che da un certo punto di vista scatta la rivincita del codardo, cioè del codardo normale, del codardo giustificato, cioè quello della persona che per tutta la vita non ha fatto delle cose che magari sognava di fare perché pensava che fossero rischiose o perché le mettevano in discussione. Allora non le ha fatte, però sotto sotto cova una rabbia, un risentimento per quelli che invece hanno avuto il coraggio di farlo. Quindi quando poi c'è l'eroe sportivo, la persona che ha fatto la grande impresa e che in qualche modo va male, allora hanno quel momento di gloria in cui possono dire: ecco, te la sei cercata. Purtroppo è un riflesso che esiste grazie ai social network, nel senso che prima questa cosa poteva succedere magari al bar e uno veniva zittito e buonanotte. Invece così ci sono tante persone che possono fare commenti di questo tipo. È un po' una cosa, credo, che lascia anche il tempo che trova, perché è una cosa talmente triste andare in un momento come questo a dire a una persona che se l'è cercata. Sì, se l'è cercata per tutta la vita, nel senso che Alex Zanardi ha fatto quello per tutta la vita. Prima faceva il pilota di Formula 1, poi ha continuato a guidare le macchine, ha continuato ad andare in bici, ne ha fatte di tutti i colori. È la sua vita, è il suo modo di essere. Io trovo più sgradevole di questo quelli che si permettono di dire al figlio: hai spettacolarizzato il tuo dolore o hai tirato fuori un'immagine privata. Perché è peggio, nel senso che quella cosa è banale, no? Le persone di scarso valore che attaccano quelli che nella vita hanno usato qualcosa. Invece questa cosa del dolore è peggiore, perché io sono molto convinto che nei momenti di difficoltà e nei momenti di dolore intenso, come sono questi per la famiglia Zanardi, ognuno ha perfettamente il diritto di gestirlo e viverlo come gli pare. Assolutamente. Anche se a noi il modo può sembrare sbagliato per un motivo o per l'altro, ma nessuno di noi ha il diritto di andare a giudicare come le altre persone vivono il loro dolore. Certo, è una cosa che succede spesso per esempio con gli scrittori o le persone che raccontano la propria malattia, no? Sì, assolutamente. No, ma qui dicono, era veramente la foto di un figlio che chiedeva solo di essere figlio e di essere lì insieme a suo padre, no? Alberto, grazie davvero per essere stato con noi, grazie per questa riflessione e grazie per averci fatto sentire papà un po' migliori. Grazie, grazie, ciao, voi, buona domenica, presto, ciao. Ciao, ciao. Noi adesso ci fermiamo, il traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. Motorcycle mama, won't you lay your big spike down? Motorcycle mama, won't you lay your big spike down? I always get in trouble when you bring it around. Motorcycle mama, won't you lay it down? Matteo, adesso una bellissima storia. La storia è iniziata, insomma, ormai da un po' di tempo. Storia che però possiamo dire che ha trovato anche il tetto in questa finalmente, no? Il tetto proprio come simbolo di una storia che si conclude bene per poi incominciare tutta la sua attività. Il tetto, o meglio l'attività a tempo pieno, è quella della casa Marco Simoncelli, che sì, insomma, è stato annunciato da Papa Paolo che i lavori sono terminati e la casa è finalmente attiva, H24. E noi diamo proprio il benvenuto a Paolo Simoncelli, papà di Marco Simoncelli, che per primo ha visto quella luce accesa di sera e ha capito che qualcosa stava accadendo dentro alla casa. Ciao Paolo, benvenuto, buona domenica. Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Allora, la soddisfazione, vero, di vedere una luce accesa e capire che... che un sogno si stava realizzando, perché poi la casa era già stata terminata, soltanto che è un centro molto grande ed è dire impegnativo metterlo in funzione totalmente. Quindi è andato avanti un po' di tempo e l'altra sera, passando lì davanti, ho visto questa luce accesa e effettivamente ora ci vivono tranquillamente i ragazzi. Che ricordiamo, è una casa per una casa famiglia, diciamo, per ragazzi disabili, e sì, appunto, che trovano un supporto in questa casa. Ma Paolo, qual è l'emozione di entrare in una casa che porta il nome del proprio figlio? Ma ti dico che è un'emozione, direi che la parola giusta è emozione e basta, perché c'è davvero dietro lì c'è una storia, c'è quasi una leggenda, c'è tantissima gente che ha offerto i 5 euro, 5 euro 80, 150 euro, chi ha donato di più. E quindi lì c'è la storia un po' di tutti in questo nome, che ormai è diventato veramente una leggenda. Però sono felicissimo, perché soprattutto è stato un ragazzo che era lì presente quando sono sceso, Rollo, che mi è venuto incontro con una faccia soddisfattissima, mi ha detto ce l'abbiamo fatta, e continuavo a ripetere ce l'abbiamo fatta, come se è veramente una cosa sentita da tutti, e quel momento lì mi sono veramente emozionato. Quindi la lettera che ho fatto, che mi avete letto un po' tutti, era un ringraziamento, a mia volta è un ringraziamento a tutti, perché chi in un modo chi nell'altro si è stato messo veramente tanto a cuore. Paolo, senti, noi rimaniamo sempre molto colpiti, no, da storie come la tua, quelle in cui si riesce a trasformare il dolore che si è provato in qualcosa di utile per gli altri. Nel tuo caso, come ti è venuta l'idea di costruire questo centro di assistenza? Da dove è partita l'idea? Questo centro, dunque, lì di fianco a una chiesa, e tempo fa c'era un parroco molto, molto intraprendente, direi veramente un imprenditore, aveva costruito questo albergo vista mare con tutte camere con bagno, nel giardino lì vicino aveva fatto un giardino, lo chiamo, ma più di un ettaro di terra, aveva fatto costruire la Palestina in miniatura. Quindi lui faceva arrivare i pullman dai fedeli, gli faceva fare una vacanza a mare, gli presentava la Palestina in miniatura, quindi insomma era veramente un parroco imprenditore. Poi è morto lui, è andato un po' tutto a puttane, è diventato un edificio fatiscente. Io, che abito lì a un chilometro e mezzo, ci passavo davanti tantissime volte al giorno, e guardando mi è venuta questa idea di fare un centro in cui questi ragazzi che ogni giorno vengono sballottati a destra per andare in palestra, a sinistra per andare in piscina, un altro posto per dormire, e mi è venuta questa idea. Quindi ho chiesto alla curia se ci dava la possibilità di buttare via tutto e fare questo centro, e la curia, devo dire, che è stata molto lungimirante, quindi è molto disponibile, lungimirante, certo, a patto che l'avessimo costruito in 5 anni. Quindi insomma era un impegno grosso, sia economico che sì. Poi la bega grossa è stata la burocrazia, che ci ha veramente allungato, sì, sì, i tempi in un modo. Però alla fine tutto bene, tutti bravi, e va al concorso. Paolo, ricordiamo fondazionemarcosimoncelli.it, ma ricordiamo anche lo rapporto fantastico che c'era tra te e Marco. Ti sei mai chiesto, Marco, guardandoti dall'alto adesso, nelle cose che fai, appunto in sua memoria, cosa ti direbbe, cosa penserebbe? Ma sicuramente direbbe: ciao, Dio, che bello. Ecco, questo è quello che penso, sì, dire. È vero, è vero. È lui. Grazie davvero Paolo per essere stato con noi, complimenti. Grazie a voi, tutti. Comunque volevo anche dire, se mi permetti, perché certo. Poi è una cosa importante per noi, che anche questo è stato realizzato poi anche con i soldi del 5 per 1000 che ogni anno ci danno delle persone. Tanto il 5 per 1000 lo tolgono a tutti, se lo vogliono donare a noi, così la gente sa dove li mettiamo i soldi, li spendiamo bene. Insomma. Siamo un'ottima dritta, grazie, ciao Paolo, grazie ciao a voi. Ciao ragazzi. Matteo, adesso una di quelle storie che ci piace narrare, che ci piace cercare, ci piace trovare, no? Quando parlavamo anche prima di memoria, dei diversi modi di fare memoria, spesso la memoria di un genitore passa attraverso quello che ti ha insegnato a fare anche con le mani. Certo, le storie che portano avanti la tradizione, ma le storie che si basano anche sul restare, che sono le nostre preferite, no? Restare in un luogo per continuare a farlo vivere e a portare avanti magari la professione dei nostri nonni e dei nostri padri. Andiamo a Bettola, siamo in provincia di Piacenza con Massimo Calamari, che questa scelta l'ha voluta proprio fare. Ciao Massimo, buona domenica e benvenuta ai Padri Eterni. Ciao ragazzi, buona domenica a tutti. Allora, hai detto che avevi bisogno di vedere il mondo da una vetrina. Che vetrina è? È la vetrina del mio negozio, è la vetrina da cui io guardo il mondo dal 1989 in prima persona, se vogliamo dal 1978, perché mio papà ha iniziato a fare l'attività lì. Io, seppur piccolino, girovagavo nella bottega, ma come calzolaio, diciamo, dal 1989. E quindi hai proprio scelto di continuare a fare il lavoro di papà, che poi era anche il lavoro del nonno. Esatto, l'hai fatto più per te o l'hai fatto più per loro? Ma guarda, entrambe le cose, nel senso che comunque io quando ho iniziato nell'89, se vogliamo, è stata magari una scelta comoda, io finivo la terza media, quindi non dovevo andare avanti con gli studi, nonostante per quello che ero anche portato, però era una scelta magari anche per me di comodo, che poi comodo non lo è stato, perché comunque vedere passare gli amici a giocare, io dovevo stare lì a lavorare, e non è diventata una scelta di comodo, ma poi è diventata una scelta di passione. Una passione che adesso mi ha fatto ritornare lì, principalmente per me, perché mi fa star bene, e poi anche naturalmente anche per lui, perché penso per mio padre in questo caso, che è un motivo comunque di orgoglio, ecco, questa scelta. Massimo, questa è la vostra terza generazione di calzolai, di ciabattini, no? Come ci si sente oggi a portare avanti un mestiere così antico eppure indispensabile, anche perché, come dicevi, la tua sembra essere una vera passione proprio per la tradizione. Hai passione anche per il teatro dialettale, per esempio. Cioè, da dove nasce tutto questo? Sì. Beh, nasce da quello che ha detto Lenzè, no? Quindi dal mondo parrocchiale, quindi dei valori di una volta è dirlo un po' sbagliato, perché comunque è un ragazzo del 75 che ormai sta diventando uomo, sembra un po' stonato, no? Voler fare un po' il fenomeno, però ecco, in realtà da lì, da quello che è stato il mondo parrocchiale principalmente, su cui si è cresciuti, quindi i valori della famiglia e che si trasportano anche quindi nel lavoro, nell'attività quotidiana. Massimo, stavo pensando, guarda, mentre parlavi, alle volte che io da bambino sono andato dal calzolaio e insomma mi è venuto in mente questo flash, no? Che comunque andavo sempre insieme alla mamma, comunque si andava con la mamma dal calzolaio a portare le scarpe rotte, anche se erano le scarpe di papà, però era abitudine andare con la mamma ed entravi in questo mondo pieno di odori, pieno di tanti pezzi, di attrezzi, che insomma eravamo la curiosità di un bambino, anche la sete, no, di conoscenza ti portava a toccare, a chiedere, a vedere. È ancora così? Cioè, attiva ancora la curiosità dei più piccoli, l'ingresso dei più giovani? Qualcuno capita che inciampa dentro e si ferma piuttosto quei 5 minuti in più, anche perché io avendo anche una gatta lì che è la seconda padrona di casa, quindi c'è lo stimolo in più. Però sì, la curiosità, qualcuno è ancora stimolato dagli antichi mestieri, anche se ormai vi dico, sì, c'è qualcosa ancora sicuramente, perché le basi poche, il calzolaio sta comunque evolvendo anche lui verso quello che è il confinismo, bisogna correre dietro anche a quello, e quindi sono cambiati anche un po' i modi di lavorare le calzature, ecco. Quindi ti senti comunque un calzolaio diverso da quello che era tuo padre, da quello che era tuo nonno? No, assolutamente no, perché le radici non si dimenticano mai, quindi la base è rimasta intatta, è un calzolaio che sta cercando di evolversi, che sta cercando di mettersi al passo con i tempi, perché ti costringe il mercato, ma che non dimentica assolutamente quello che sono state le basi, che poi alimentano la passione, perché se deve diventare una cosa fredda, no, non va più bene, almeno per come la penso, Massimo, io. Massimo, trovo molto bella quell'immagine con cui abbiamo aperto, no? Tu che vuoi osservare il mondo della tua vetrina, proprio come questo fosse un osservatorio privilegiato sugli altri. Che cosa vedi da questo osservatorio, soprattutto sul rapporto tra padri e figli, per esempio, se ne hai l'opportunità? Tra padre e figli della mia finestra, forse più tra nonni e nipoti, perché era una vetrina dove si passavano tanti nonni con i loro nipoti, perché era zona di Betola, se vogliamo, un po' più vecchia, tra virgolette, del paese, e dove c'erano le prime case, quindi nonni, quindi questi tanti nipoti che al tempo erano loro i primi custodi dei nipoti, quindi questo rapporto ho vissuto di più in prima persona. I padri erano molti a lavorare, quindi ho visto questo. E cosa ho visto? Ho visto tante generazioni di giovani e purtroppo tante persone anziane che oggi non ci sono più, sì. Però sono rimaste legate alla mia memoria, ecco, questo sicuramente. Grazie vero Massimo per aver condiviso con noi questo tuo bel pezzo di storia. Ricordiamo Massimo Calamari, calzolaio di Bettola, così come suo padre, così come suo nonno. Ciao Massimo. Ciao, grazie a voi, buona domenica. Noi ci fermiamo al momento del meteo, la pubblicità, poi ancora qua con i padri eterni. Padri eterni. Disarmato in una foto senza felicità, sfogliato e immaginato in questa vita sola che non ti guarirà. Crescerò e sarò un po' più uomo, ancora un'altra guerra mi cullerà. Crescerò, combatterò questa paura che ora mi libererà. Milioni sono i bambini stanchi e soli. Ancora buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola, i padri eterni. Radio24.it è il nostro indirizzo, il nostro sito da dove puoi poter scaricare il podcast, ma potete anche scriverci con idee, suggerimenti, storie, critiche. Il nostro indirizzo è padrieterni@radio24.it, ma tutto ciò lo potete fare anche attraverso la nostra pagina Facebook, i padri eterni di Radio 24. Bambini, canta Paola Turci, e sono i bambini protagonisti appunto del libro di cui parleremo fra pochissimo con il nostro prossimo ospite, Matteo. Abbiamo seguito settimana dopo settimana la quarantena, il lockdown, quella che è stata anche l'evoluzione nel rapporto con i nostri figli, i nostri errori anche di padri, e adesso è il momento del dopo, quindi è comunque il momento ancora del capire, del chiederci, del tornare su quei giorni, no? Perché non possiamo far finta che sia stata una parentesi e basta. Sì, Fede, ma anche perché di bambini in realtà durante questa quarantena da poco passata forse abbiamo parlato troppo poco. Ci siamo soffermati a dire quanto siano stati insospettabilmente bravi, comportandosi probabilmente meglio di quello che noi ci saremmo attesi, ma in realtà evidentemente questa situazione deve aver lasciato dei segni anche su di loro. E poi i bambini? Questo è il titolo del nuovo libro di Massimo Amaniti, psicoanalista e professore onorario di psicopatologia dello sviluppo presso la facoltà di medicina e psicologia dell'Università di Roma, libro uscito ieri, edito da Solferino, e si parla proprio di questo, dei nostri figli al tempo del coronavirus. Buona domenica Maniti e grazie per essere qua con noi. Buongiorno, buongiorno. Questo e poi dice tutto, ci siamo dimenticati dei più piccoli? Direi di sì, ce ne siamo dimenticati completamente nel periodo della chiusura, come io riporto nel libro, ma poi è stata un'esperienza di tutti noi. Si poteva uscire per portare i cani sul marciapiede, però non si potevano portare i bambini, e questo io l'ho trovato un aspetto molto negativo, cioè è stata una rimozione dell'infanzia in un paese come il nostro, che da una parte mitizza il bambino, lo vediamo in televisione, e dall'altra invece è anche un paese che investe poco sull'infanzia e sui bambini, addirittura è il paese del mondo occidentale in cui il tasso di natalità è più basso. Allora, in questo periodo c'è stata un'ulteriore riprova del fatto che le esigenze dei bambini, i loro bisogni, non vengono riconosciuti adeguatamente. Amaniti, si è sentito dire molto spesso, no? Lo dicevo in apertura, in questa quarantena da poco passata, che i bambini hanno reagito meglio del previsto, apparentemente senza grossi drammi, senza forse la difficoltà che ci si sarebbe aspettati, magari perché i bambini si adattano anche meglio, no? Alle situazioni impreviste. Ma la sensazione è che, come lei ha ben sottolineato, ci sia una sofferenza che magari hanno fatto fatica a formalizzare e esprimere, ma che c'è, che non si può uscire indenni da una cosa come questa. Come possiamo fare noi padri ad aiutare i nostri figli a esprimere questa loro sofferenza? Ma io credo che la sofferenza sia espressa. Il problema è che la sofferenza dei bambini non è che si esprime con i proclami o con le manifestazioni in piazza. La sofferenza dei bambini si esprime con le difficoltà del comportamento. Noi abbiamo intervistato genitori in questo periodo e abbiamo visto che nel 70% dei casi i genitori avevano notato dei cambiamenti nel comportamento dei figli, erano diventati più irrequieti, erano diventati ansiosi, non riuscivano la sera ad addormentarsi e volevano i genitori vicino. A volte avevano anche delle regressioni e perdevano per esempio il controllo delle urine. Il problema è che questo rimane in qualche modo circoscritto nel comportamento dei bambini, che può essere letto e riconosciuto oppure può essere ignorato. Il punto è da chiederci se queste difficoltà che sono comparse in questo periodo, in quanto i bambini poi sono come una spugna, assorbono quello che succede in famiglia, le paure, le ansie, l'incertezza, l'impossibilità di uscire all'esterno, tutto questo viene assorbito. Il problema è quanto tempo ci vorrà per recuperare un equilibrio e un funzionamento, possiamo dire, normale. Professore, ma può dare qualche consiglio? Non esiste la ricetta perfetta, lo sappiamo benissimo, però magari qualche strumento, qualche intuizione a noi padri sul come aiutare i nostri figli in questo e poi? Sì, ma io credo che adesso ci troviamo in una fase diversa, i bambini possono cominciare ad uscire, vediamo genitori che portano i figli al parco per giocare, li portano in bicicletta. Io credo che questo è sicuramente positivo, perché aiuta i figli ad avere un'immagine del mondo esterno non minacciosa e pericolosa, ma bisogna ricreare un ponte col mondo esterno. Allora è importante però che questo avvenga gradualmente e che i bambini in questo nuovo scenario ritrovino un po' i loro ritmi, perché durante il periodo del lockdown i loro ritmi erano stati completamente stravolti, e bisogna che i genitori si rendano conto che non è finito questo periodo, ma che devono aiutare, sostenere i figli, rassicurarli, cioè non pensare che tutto è risolto. Una cosa che io dico, forse sarebbe stata utile nel periodo del lockdown, ma anche adesso, quello come di fare in ogni famiglia una specie di giornale di bordo, okay, dove ognuno scrive che cosa succede durante il giorno, le nuove esperienze di uscita, il bambino può disegnare qualcosa, ed è come un libro di bordo che può aiutare in questo periodo. E credo che è anche importante che i genitori, soprattutto nel momento dell'addormentamento, stiano accanto ai figli, li rassicurino e accettino, perlomeno per un certo periodo, che la notte si alzino e vadano nel letto dei genitori. Cioè bisogna che i genitori abbiano chiaramente in mente che tutto non è risolto e bisogna continuare a lavorare, perché spesso certo, questi... Ammaniti, lei dal suo punto di vista registra delle differenze per esempio sui comportamenti e soprattutto sulle conseguenze di questa situazione fra bambini e adolescenti? Ci sono delle peculiarità? Sì, ci sono delle differenze. Quella dei bambini l'ho tracciata, sì, e sono... stati, hanno manifestato quei disturbi a cui ho fatto riferimento. Gli adolescenti, contro ogni attesa, in qualche modo si sono come appropriati dell'isolamento, si sono chiusi nella loro stanza, hanno cominciato a chattare, videogiochi con gli amici, andando sui social network e così via, cioè hanno vissuto questa situazione rinchiudendosi. Il rischio è, nel caso loro, che diventino dipendenti da internet, e l'altro aspetto, i disturbi del sonno, perché in questo periodo sono andati a dormire alle 2, alle 3 di notte, e riprendere i propri ritmi impegnerà del tempo. Quello che sta succedendo, ed è davanti agli occhi di tutti, che gli adolescenti vogliono rientrare, diciamo, nell'agorà, nello spazio pubblico, in qualche modo negando tutto quello che è successo, cercando di recuperare in tempi rapidissimi quello che avevano perso. Questo non va bene. I genitori li devono aiutare a non dimenticare quello che è successo e a rientrare anche in un modo attento nell'area sociale. E poi i bambini, ricordiamo il nuovo libro di Massimo Ammaniti, I nostri figli al tempo del coronavirus, in libreria, edito da Solferino. Grazie professore, buona domenica. Arrivederci. Grazie davvero. Il traffico poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. La parte che ho dovuto imparare non è quello che sei. Gli abiti che devo portare sono di un altro tempo. Ecco una nuova persona che sta nel mio corpo e ha la mia faccia, e ciò che di me stesso rimane non posso certo portarlo qui. Sarò giusto, poi sarò un re, assassino in cerca di redenzione, un eretico, mi lascerò morire d'amore, e la sera dopo rinascerò, perché sempre... Canta l'attore Enrico Ruggeri, ma quando si pronuncia la parola attore in Italia l'immaginario va ovviamente a lui, e sto parlando di Vittorio Gassman, di cui proprio domani 29 giugno ricorre il ventennale della morte, ed è un piacere avere qua con noi oggi Paola Gassman, figlia di Vittorio Gassman. Buongiorno Paola, buona domenica. Buongiorno, salve, buona domenica. Grazie. E grazie dell'invito alla trasmissione. Paola, ma leggevo in qualche sua intervista, diceva che appunto la cosa che più ammirava in Vittorio Gassman, lei figlia era il suo essere poliedrico, no? Quindi attore di teatro, attore di televisione, grande narratore, ma era anche un bravo padre. Ah sì, devo dire, anche in quello ha dovuto studiare un po' prima di diventarlo, nel senso che io sono la prima figlia e sono nata quando lui aveva appena 23 anni e quindi erano troppo pochi per saper già gestire un mestiere così difficile, una professione così difficile come quella del genitore. Quindi i suoi primi anni nella mia infanzia sono stati un po' assenti. Però poi man mano, quando io ho avuto più l'uso della ragione e quindi abbiamo potuto cominciare a dialogare e poi sempre di più quando ho scelto poi la professione e tutto quanto, ha imparato ad esserlo. Un padre comunque diverso dal padre canonico, ma questo è il suo bello. Cioè un padre che ha sempre saputo riconoscere tutti i suoi difetti, non si è mai voluto così diciamo autoaffermare come padre, come giudice severo eccetera, ma è diventato veramente, senza volerlo essere, un amico, insomma, più un collega, un amico, perché in fondo erano pochi gli anni che ci separava e quindi che ci separavano e quindi insomma è stato un padre anomalo, ma alla fine posso dire che è stato un grande padre e credo di poterlo dire anche a nome dei miei fratelli, tutti diversi, tutti con un rapporto unico tra di loro, ma proprio attraverso di lui un rapporto che si estendeva a tutti noi, insomma a tutti e quattro. Paola, quando si pensa a suo padre naturalmente insomma si ha a che fare con una leggenda e soprattutto no, viene in mente la sua esuberanza, anche la sua spavalderia, che però lei diceva era anche una specie di maschera, perché in realtà il vero Vittorio Gassman era anche fragile, ha avuto anche episodi di depressione. Com'era il rapporto, si rifletteva questo suo modo di essere nel rapporto fra di voi, fra padre e figlia? Ma lui si è sempre fatto delle diagnosi, se vogliamo, almeno soprattutto nell'ultima parte della sua vita, quando la depressione lo ha colto un po' in maniera profonda, perché in effetti lui è stato un bambino e un adolescente molto chiuso, molto introverso, molto diverso da quello che poi è apparso a tutti noi e quindi voleva fare lo scrittore, voleva rinchiudersi in un suo mondo e non pensava assolutamente di fare qualcosa di così estroverso come la professione dell'attore. È stata sua madre che lo portava comunque a teatro, a vedere gli spettacoli, che amava molto il teatro, che lo ha in qualche modo forzato iscrivendolo all'Accademia. Lui ha subito capito che per fare un mestiere che comunque si è piaciuto iniziare doveva modificare la sua personalità ed è diventato un estroverso al mille per mille, perché quando si fa in maniera un po' forzosa chiaramente si cerca di insomma ci si sforza di esserlo totalmente e ha vissuto quasi tutta la vita un po' su di giri, se vogliamo, il che gli ha permesso di fare tutto quello che noi gli abbiamo visto fare, anche la definizione diciamo mattatore, la sua poliedricità è dovuta all'aver sperimentato tutto, però sforzando un po' la sua personalità, il suo io più profondo, che a un certo punto, quando comunque le forze hanno cominciato a non esserci più totalmente, insomma l'hanno riportato un po' alla depressione e a quella, perché il suo io non era cresciuto altrettanto, insomma, di quanto non avesse fatto nella professione. Questo a grandi linee, però l'ha fatta lui questa diagnosi e mi sembra interessante, almeno per quanto lo riguarda. Assolutamente. Paola, prima diceva appunto che con ognuno dei quattro figli comunque ha avuto un rapporto unico, privilegiato, ma era un padre diverso anche a seconda del figlio che aveva davanti. Sì. Sicuramente lo è stato, un po' per motivi proprio tecnici, perché per esempio mia sorella è nata in America, vissuta in America, quindi per lui è rimasta sempre un po' una figura affascinante, un po' malinconica, un po' lontana e quindi da conquistare ogni volta. Forse il rapporto più vivo, anche perché aveva un'età già ragguardevole, però giovane, è stato quello con Alessandro, certo. In cui si è rivisto da giovane, il maschio, insomma ecco, è la figura più più a tutto tondo. Poi però un grande affetto, un grande amore per Jacopo, l'ultimo figlio, che però è diventato suo malgrado un pochino più nipote che figlio, insomma era un po' più nonno che figlio, quindi l'affetto era ancora più grande, ma le forze cominciavano un po' a mancare, certo. E quindi ha instaurato con lui un altro tipo di rapporto. Ripeto, è stato bravo in questo, e poi soprattutto nel avere un rapporto con ognuno di noi, ma nello stesso tempo instaurare un rapporto anche fra di noi attraverso di lui. Grazie davvero Paola per questa testimonianza bella, sincera e appunto di una leggenda. Grazie, perché lo sentiamo un po' tutti nostro, no, Vittorio Gassman? Ecco, spero che appunto, perché tutti quelli che lo ricordano mi aiutano a così a lenire un po' certo. Il dolore di averlo perso così presto, e sapere che però viene ricordato, perché la memoria è sempre un po' corta, no? Sì. E quindi ricordiamo i nostri grandi. Grazie davvero Paola, ciao e buona domenica. Arrivederci. Ciao, ciao. Buona domenica. Tempo scaduto, è il momento dei saluti. Un grazie a tutta la squadra di Radio 24, Danilo Di Trani che ha collaborato alla realizzazione della puntata, e Guido Scotti oggi in assistenza, Roberta Frisani alla parte tecnica. Radio24.it è il nostro sito da dove poter poi scaricare il podcast. Padre Eterni @radio24.it se volete scriverci, oppure nella nostra pagina ufficiale di Facebook. Ciao Matteo, buona settimana. Ciao Fede, buona settimana anche a te. Io vado a camminare, vedremo appunto come tornerò. Ciao, a domenica prossima. Ciao.